faccio la sensibilità, come io qua sto usando la KF430, è già mia scelta sulla mia radio, poi non lo so, non voglio insistere, però io qua li noto positivi, leggeri ma positivi, 928, 930. No, perché diciamo uno delle cose cose informa così, cerca di sistemare la situazione, sempre per gli apparati. No, perché io ascoltavo da un po'. E ho provato a fare una comparazione, ho passato, ho 4 apparati, tutti e 4, li ho provati e tutte e 4 mi hanno dato la stessa risposta. Guarda, lo vedi 10, poi scende quando parla, poi quando con la forza diciamo non parla, salgono su. Durante la modulazione, da parte mia, per carità, non voglio allarmarti già, ma ho visto così e mi è sembrato opportuno avvertirti, forse che siano i miei apparati, attenzione, però invece Claudio no, e quindi Claudio salgo. Guarda adesso se ti salgono, se scendono. Prova già con Antonello. Antonello, guarda adesso, abbassando la porta. 3-1, 3-1, 3-3. Sì, adesso sono positivi. Fai 9-9-10, 9-9-10. Poi, adesso, prima facevi da 9-10, scendevi giù. È così, è così, io non l'ho capato, non lo fa, nemmeno col mani non lo fa, aspetta un secondo, la radio bene va Claudio, perché per sbaglio ho toccato i mati di invece che la potenza. No, va bene, va bene, ma bisogna vedere a quanto l'hai messo tu per andare negativo, a quanto l'hai messo già, perché mi sembra una cosa strana, se io qua li vedo in leggeri, ma ci sono in positivo, lui invece forse che il baracchino vecchiano loro è più sensibile, io qua leggeri ma li vedo sempre positivi anche quando ho aumentato la potenza. A quanto l'hai messo la potenza? Quando l'ho aumentata l'ho messa dopo i 20, siccome massimo può fare 20, perché se lo aumenti di più è negativo, per quello me ne sono accorto anche dagli strumenti, non è che stanno nel positivo e me ne accorgo dagli strumenti, capito? Tutti di solito sono in positivo adesso. Non lo so, guarda, io mi vorrei togliere il dubbio con quella radio, quando hai 5 minuti mi telefono un pomeriggio, la porti qua, io stacco nuovamente il 430, l'attacco sulla T250 e se la T250 dice che i watt sono in positivo, tu sei pur certo che come dico io, gli strumenti che c'hai già, non so cosa dirti, perché il manium è una radio, quella è un'altra, quindi continuiamo sempre lo stesso discorso. Io ho comandato con la T250, la voglio vedere quella radio, se la T250 a me mi va da 0 a 100 watt come deve andare, allora stai pur certo che quella radio è appostissimo, capito? Perché gli strumenti che tu hai sono strumenti diversi da questo della T250, quindi se hai comandato la T250 col cavettino suo remote, la radio mi dice che da 0 a 100 watt, a 50 watt, a 80 watt va in positivo, allora tu stai pur certo che lì c'è un problema di fondo, che è quello magari di qualche rientro di RF che ti fa lavorare la radio negativo. Questo è il mio parere, per esperienza acquisita, poi non lo so. Lo facevo anche a me comunque con 60, quando abitavo a Mesano, quando andavamo due alle picchi negativi e non c'era verso. Qualche rientro di varie frequenze e cose del genere. Ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Antonello Diussi, ciao Claudio. Stavo usando un Midland, come sto uscendo? A parte va bene, c'è dentro che ho cambiato la capsula. Com'è la modulazione? Per me è buona, il segnale già non lo sai, non c'è bisogno di dirtelo. La radio 5 è perfetta, sì, è un rientro di RF lì, sicuramente. In quel cassone, in quel mobile c'è un rientro di RF. C'è un rientro di RF. Stai attento Gianni, alle luci a neon, mi sono dimenticato di dirtelo l'altra volta, stai attento alle luci a neon, ai LED e alle cose. ho tolto tutto, l'ho portata qua, la radio ha funzionato sempre con picchi davvero a 100 watt, tutto in positivo, ok? Giusto, è vero, questo non ci avevo pensato, è possibile, non è una brutta, che rimango tutti ammassati e sia quello il difetto, potrebbe anche essere, è vero, però non ci avevo proprio pensato, giusto, giusto. È quello, va tranquillo, io ti dico per mia esperienza, poi c'è un'altra cosa da dire, che quel tipo di radio, soprattutto il 140, il 440, il 430, il 80, queste sono le quattro categorie, devono avere assolutamente il cavettino giallo-verde collegato a massa, ma non a massa, a un buloncino, a una cagata, ci deve essere la massa per far sì che qualsiasi tipo di rientro di RF su quel tipo di radio, che è una cosa allucinante, sono le quattro radio bellissime, funzionanti al 200% in M, ma di merda per l'RF, si portano dentro una qualsiasi cosa di RF, anche un rientro di radiofrequenza dell'alimentatore, ok? Siccome io so come lì Gianni è strutturato, che le radio sono in questo armadio eccetera eccetera, può darsi pure che in quel contesto lì, in quel riquadro dove tu hai fatto la stazione, no? Perché quella è una stazione radio, questa è una sala radio, quindi c'è una differenza di raggio di RF molto più sparso, lì è molto più ristretto, può darsi pure che all'interno di quella tua stazione radio ci sia un rientro di RF che la radio percepisce e non ti fa andare come deve andare la radio nel suo stato, insomma, nel suo uso. Claudio, adesso sono col Magnum, sta picchiando da 20 a 30, se lo alzo va anche a 40, sempre in positivo, sia gli strumenti che il Magnum. Gianni, io non so come dirtelo, ma bisogna che te lo scriva. Allora, il Magnum è un apparato APLL, segnatele queste cose, Magnum Radio APLL, quindi non ha niente a che fare con un HF, con un sistema AVCO, a microprocessori e a schede, hai capito Gianni? Non ha niente a che fare, il Magnum è un baracchino, tu chiamalo come cazzo vuoi, per me è un baracchino, che non ha niente a che fare con un HF. Un HF è quando tu hai all'interno dei microprocessori che escitano un sistema DLC audio, è un sistema a schede con un sistema di VCO comandato come il computer, non puoi pretendere che il Magnum sia uguale al 140, no Gianni? Il Magnum tu lo poni in terra, ti poni lo vedi sopra, vedi un microfono e fa vendere un mattessi, prova a farlo col 140 per se lo fai, non esistono questi paragoni Gianni, non esistono proprio. Ah, ma infatti, no, no, è una giusta, vedi, è una cazzata come si risolve il problema. Sì, infatti per le radio è sempre allucinante, anche un minimo grano di polvere da problemi. Sì, una cosa da valutare bene, Gianni, secondo me al 98% è quello il problema, troppo ammassato, sai, e c'è dispersione, perché no? Potrebbe, secondo me è quello, sì. La risposta migliore possibile, il 98% per me è così, non ce l'avevo proprio pensato. Registrato il becco, ma è così, cioè io ho una sala radio, a differenza del becco di Gianni che è già una stazione radio, posizionata in un posto, in un armadio bellissimo, fatto bene, eccetera, eccetera, una stazione, io ho una sala radio da 6x4, ok? Nel muro io ho 4 radio a 220, 4 radio a 220, 4 radio a alimentazione a 12 volt, senza contare le linee valvolari, ok, va bene, il mio impianto è fatto per ricevere tutte le radio una vicina all'altro, senza un rientro di RF, ma sono tutte aperte, la stanza è grande, se ci dovesse essere un rientro di radiofrequenza, fatta lì dentro, con l'alimentatore sopra, con l'altro baracchino a fianco, i led che devono illuminare cazzo il 140 perché deve essere in blu, e lo strumento che c'ha tutte quelle particolarità che tu hai lì, sicuramente, ma te lo dico con molta sincerità, senza nessun dubbio, c'è sicuramente un rientro di RF, e il 140, essendo una radio a due conversioni, a microprocessore, è chiaro che se lo vede, te lo legge, dice un computer, non è un magnum, dice un computer, quello legge, legge, memorizza e poi scrive, capito? E poi te lo ripete. Se lì c'è il rientro di RF e tu non lo elimini, quella radio non uscirà mai come deve uscire. Tranquillo al 200%, perché se tu la porti qua, io stacco il mio, l'attacco alla C250, quella radio fa paura qua, a casa mia. Lì no, lì non sta lavorando al 100%, sta lavorando all'80%, perché c'è qualcosa che non va bene. Bisogna progettare qualcosa per far sì che quella radio lavori al 100%. Avanti, Beck. Cassa Roger, ti ascoltate da... Come sto facendo? Non c'è una stazione esatta? Assolutamente no. Prima si passa in radio. E adesso? Ah, adesso già cambia, è un'altra cosa. Ecco, adesso tu prendi a Elio, no? Elio, 140, l'altro baracchino sopra, e l'alimentatore, il computer a fianco, magari il neon, la luce che cazzo entrava, tutti i rumori, tutta questa alternata, quelle che cosa sono? Sono tutti dentro di RF, che si portano dentro le radio, capito? Si portano dentro le radio, lì già tu non puoi pretendere che ci sia il 100% della... Se fai paragoni con un magnum, allora no, non ci siamo. Non ci siamo assolutamente. Il 140 non è un magnum. Il magnum è una radio PLL. È sempre un baracchino. Io lo chiamo sempre un baracchino. Il 140 è un HF, è un 030. È un sistema VCO, è un sistema microprocessori. È un'altra cosa, è un'altra gubba. Non c'entra assolutamente niente, quindi molto più sensibile, molto più... E la 500 con la Mercedes sono due radio completamente diverse, una è una HF e una è un baracchino, anche se ha tutte le manopoline, va da 26 a 28, sempre un baracchino per me, APLL però, APLL, non è un digitale, capito? Non è a schede o a VCO, a microprocessori come cazzo c'ha il 140, il 140 è un HF, quindi deve lavorare con una linea da HF. Se tu sei lontano in Chivi Trento, vede un po' di RF, è chiaro che la radio non lavora così. Perché mi ricordo quando me l'ha ratta e poi tu la sera sei venuto a prenderla, e noi l'abbiamo provata con la T250, i vati c'erano tutti, quindi cazzo spariti sono. Vedi già se c'è un'opportunità, perché no? Ti viene bene, per la Claudio lo provi lì, mi chiami, io attacco e lo proviamo da casa di Claudia qua, a vedere se c'è la differenza, perché no? E da lì riesci a trovare l'inghippo. Non ne ha inghippo quella radio, no, non ne ha inghippo, non ne ha inghippo, sono delle coglionate, delle cose. Baracchini, radio, HF, uno vicino all'altro, chiusi così, è sempre un problema, io quando ero via Pasqua, che c'avevo poco spazio, e le radio erano tutte vicino, avevo il C80, avevo il 140, avevo l'FT920 della Yaesu, ne avevo, però erano tutte una vicino all'altro, perché non avevo spazio, avevo tutti i microfoni con il cavetto di massa, tutti! Non c'era un microfono con un cavetto di massa. Quando mi sono sistemato la sala radio qua, vera e propria, io cavetti di massa non ne ho sui microfoni. Cioè i cavetti di massa, i giallo-verdi, con la treccia tassellata a muro in rame, tutta forata, dove ci sono tutti i cavetti di massa, i giallo-verdi, tutti collegati alle radio. Perché deve essere così? Ah, vabbè, io l'inghippo intendevo... quello che hai detto tu giustamente, che l'apparato rimane chiuso in un piccolo spazio, diciamo, e riceve tutti questi disturbi. L'inghippo intendevo in quello. Dunque, tu che a casa tua fortunatamente c'è la possibilità che le radio dispergono tranquillamente senza disturbarsi una con l'altra, lì vedi un po' la differenza. Ma anche l'anno scorso ogni tanto mi dava dei problemi, dei disturbi, ed era dovuto a un piccolo trasformatore di quello che fa da 1,5 a 12 volte, e dava problemi, dava disturbi all'apparato, ed era lui. Ho capito che di anno era questo piccolo trasformatore. L'ho tolto, il problema l'ho risolto. E sicuramente per Gianni è la stessa cosa, tutto lì. Non so, questo lo sa Gianni come è organizzato lì, ma io sono sicuro che non è un problema di radio, assolutamente. Perché mi ricordo perfettamente, prima di dargliela l'abbiamo attaccata qui alla T250, infatti erogavano tutti in positivo e tutti perfettamente, quindi sicuramente se adesso lo fa salire sino a certa potenza e poi gli dai negativo, c'è qualche rientro di RF, c'è qualche rientro, può darsi pure dell'alimentatore, un piccolo rientro di RF che quindi non scarica, infatti sono molto importanti per gli HF, no, lo spazio, il ratio, l'alimentazione, il coordinamento che c'è tra l'ispezione dei carri, le masse, tutte queste cose sono molto importanti per gli HF, io parlo di HF, per i baracchini, io lo pongo in terra, le metto il piede sopra, allungo il microfono e sto parlando, non mi va di nuda, provo a farlo tu con un 140, con un qualsiasi tipo di HF, assolutamente non lo puoi fare, perché ti fischia, ti fa rientro, non ti fa uscire, manco da qui alla Landriga. Avanti Antonio. Vai con tu. Io adesso ho cambiato baracchino, sto usando quello che c'aveva Elio a casa sua. Elio, dammi il controllo, come sto uscendo? Fino avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho dovuto abbassare il microfono, guarda, perché se no può combare questa geccia. Sono con Saverta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com'è? Saltare è buono, la radio è molto complessa. Elio, cazzo, ce l'ho a 50 metri, mi sta facendo sordo. Ti stavo per dire, se questo è il baracchino, che a casa di Elio è tutto gracchiante, grusarella e fischia, cazzo Antonio, allora ho ragione io, che da casa a casa le cose cambiano. Sto usando il baracchino che infatti è quello che usava Elio a casa sua. E lo usando io, se avevo il tattoo, quello mio, arancione, figurati, e cioè il microfono, non ce l'ho al massimo. Così al massimo, guarda, se mi tolte, aspetta un attimino, guarda, devo abbassare il volume delle cuffie, perché sennò, tanto la bomba, non ho mai visto una cosa del genere. Guarda, così è a manetta, così sto abbassando, eccolo qua. Questo è il Midland, quello 40 canali AM/FM che ci avevi tu. Io lo sento, Antonio, si sento benissimo, veramente, veramente una bella radio, molto presente rimane. Cazzo presente. Aspetta, ma hai sentito Elio che cosa ha detto? Elio, tu lo senti come? Compresso. Io non riesco a capire che regolazioni c'è in quelle radio, ho invece la mano, boh. Non lo so, non so cosa dirti, ma guarda che sto uscendo veramente bene Antonello, ma bene veramente, io ce l'ho a 50 metri e Antonello è 9,50 qua, 9,60 come segnale, ma la radio è talmente pulita che non ha nessuna proprio niente, non distorce nulla, è un bel amplificata, capito? Ma Gianni Caruto è Gianni. Secondo me si è offeso. Ah? Secondo me si è offeso. Ho offeso Gianni, non è che si deve offendere, anch'io già l'avevo fatto, che cosa è male. Si sta parlando di elettronica, di possibilità di migliorare sempre. Io ho sempre detto che le radio non vanno mai chiuse in armadi, in mobili particolari, eccetera, eccetera. Devono essere in linea e con molta apertura, con cioè un risultato superiore, perché è successo a me, lo dico io perché è successo a me, quando ero in via Pascoli, c'era una scrivania piccolina perché lo spazio era quello, e le radio erano tutte mucchiate, avevo tutti i microfoni con i cavetti a massa, tutti, perché non ce n'era uno che funzionava senza fischiare. No, ma giustamente, per carità, queste cose tra virgolette ben vengano, perché si sperimenta, impari tantissime cose alla fin fine, anzi poi ci assillavi più, ci prende ancora più gusto, la passione aumenta perché deve trovare la soluzione, poi quando capita ad un altro giustamente con la sua esperienza insegna, perché si deve offendere, anzi dovrebbe assillarsi di più adesso a risolverlo tutto lì, andare a casa tua, là, provare, e lì ci scappa una chiacchierata, perché no, non è male assolutamente. Ma non è modo più assoluto, io sono sempre disponibile per queste cose, non c'è problema. Ma queste prove le abbiamo già fatte, è successo anche con quello di Massimiliano, uguale, preciso identico, capito? Dopodiché abbiamo assoggettato un altro problema, lui lo teneva sotto con l'alimentatore sopra, no, l'ho detto, la radio la metti sopra, in modo che sia più aperta, più, e quindi tutto il sistema di RF che accumula sotto, chiuso, anche se era un sobbalco piccolino, insomma una mensola fatta doppia, come l'ha invertita? È cambiato il sistema, no, non c'è scritto, ma io queste cose dico per l'esperienza che ho già fatto, per mia esperienza personale, quindi se lui dovesse togliere quel 140 da lì e metterlo sopra il letto col cavo lungo, io sono convinto che lavora molto ma molto meglio che la radio, tranquillo, guarda che l'altro, sto dicendo perché ho avuto esperienza io, e tu già te lo ricordi. Allora, se tu attacchi l'alimentatore, attaccato a Balacchino, cioè al chiuso più che altro, perché Balacchino non faceva questo nel lavoro di effetto, già te lo ricordi anche tu. Mi dava alternata da Balacchino, quindi gli apparecchi, cioè il chiuso specialmente, non è spostato, ma meno di un metro e mezzo dall'alimentatore, dopodiché mi fa la massa a terra. Io ho fatto la massa a terra dal microfono che me l'ha fatta, non è che l'abbia fatta proprio io, me l'ha fatta Adriano. Gli ha modificato questa scaletta qua e gli ha messo un cavetto di massa, partiva il cavetto di massa dal microfono alla vite dell'apparecchio, e dietro dove c'era la massa a terra del 680 andava direttamente a scaricare dove c'è il termosifone che c'ho io di qua. Allora uscivo benissimo, se no non c'era verso, uscivo a fischi, uscivo a pernata, di tutto e tutto ci avevo. Addirittura neanche il computer ci va vicino, perché sennò ti rompe le balle pure il computer, non solo l'altro. Quindi le cose, cioè se c'è una trazione, gli alimentatori vengono tutti da una parte, e il resto tutto dall'altra, distanti, uno dall'altro di apparecchi. Capito? Il discorso è così. Purtroppo noi ci mettiamo tutto uno sopra l'altro per dire tanto non succede niente, invece no, assolutamente ogni alimentatore ha i problemi suoi, o non è schermato bene, oppure crea problemi, ti dà un alternato, o ci affischi e cose del genere. No, ma già mi esce benissimo, no? Non ha né fischi né niente, è un problema di fatto. Ascolta Antonè, io sinceramente parlando dico una cosa, questi problemi sono sorti, nascono dal fatto che non ci sono più alimentatori a stabilizzatori, ok? Sono nati da quando sono nati questi cazzi switching che non servono a niente, sono a schede, hanno dei rientri di RF pazzeschi, ma non detto da me, detto anche da Vittorio, ok? E non hanno nessuna schermatura, perché sono alimentatori a 4 soldi, punto. Allora, io ho, lascia perdere sopra, c'ho tutta la linea HF, non faccio un rientro, non ho niente, di cui una è il 7004 collegata all'alimentatore switching che è dietro, mentre le altre sono tutte a 220. Nella base di sotto c'ho a sinistra il 140, a fianco c'è il 430, la T250, la colorina esterna, l'alimentatore PS50 attaccatomi 20 cm dalla radio, il PS50 a trasformatore. Non ho nessun cavetto di massa come hai detto tu sui microfoni. Come sul rientro di RF, perché da me deve funzionare tutto bene, dagli altri non deve funzionare bene? Ti faccio questa domanda, spiegamelo tu. Oh, a me comunque, vabbè, io c'avevo quel problema, io te lo ricordo, io ho soltanto avevo quel problema, quindi poi dopo che gli ho risolti. Poi da parecchio di altri una cosa, non so cosa dirti, la verità. Ci sono parecchie cose anche, cioè ci metti una cosa sopra l'altra, eccetera, eccetera. Comunque qui, adesso, come adesso, vabbè, con quelle malattie non te ne accorgi, perché non te ne accorgi, qualsiasi malattia che ti puoi mettere anche 15 sopra, e non succede nulla. Però con 70 è una cosa impressionante, non c'era avverso, a volte uscivo bene, uscivo una fermata, o c'avevo la pentola che si cangiava rumorosa e così via, tutto lì. Va bene. Avanti, Rono Liussi, che poi dietro, come va, tutto a posto? Per il momento sì, dai. Questa settimana si tira avanti. Niente, però stavo pensando, io se non ricordo male, Gianni, c'era un bel ambientatore, se non mi ricordo se era da 30, da 50 ampere col trasformatore, giusto? Ce l'ha Gianni, io mi ricordo di sì. Dunque potrebbe usare quello e vedere un po' se cambia qualcosa, o se 10 minuti fa ha sempre utilizzato il switching, se non sbaglio c'è anche uno di quelli. Gianni diceva lo stesso alimentatore che ho io, c'è il 50 ampere, capito? Io quel 50 ampere col 430 l'avevo attaccato al 430, mi faceva impazzire la radio, a me la faceva impazzire, allora l'ho staccato, mi sono attaccato il suo alimentatore di linea, che è il trasformatore, è un 40 ampere, un 40 ampere di picco, 30 mi pare di continui, e il problema è risolto. Ma stiamo parlando di questi alimentatori perché i problemi li stanno creando solo questi alimentatori. Poi il fatto che, ti ripeto, in una stazione radio come quella di Gianni, ben composta eccetera, ci siano tutte le cose lì messe perfette eccetera, però non sono allineate come una sala radio che ho io, il problema può essere anche quello. Il rientro di RF qua magari c'è, però le radio mie non lo vedono perché è talmente grande la stanza e poi sono sistemate in orizzontale e quindi è passabile, però in un sistema, in un contesto del genere, però sicuro ci sia quel problemino lì, ma niente di particolare, si può verificare e vedere dov'è il problema. Che la radio abbia problemi, non sono assolutamente d'accordo, perché esce benissimo alla grande, non è un problema di radio, è un problema di sistemazione, secondo me. Poi ripeto, a me è successo che una cazzo di lampadina neon, una lampadina neon messa vicino alla radio, perché c'era anche il computer vicino, adesso è tutto fatto diversamente, mi creava problemi, mi faceva un rientro di RF con questi rumori allucinanti. Quindi bisogna verificare tante cose. Non sono importanti le lampadine per le radio, quanto sono importanti l'emissione e la radio stessa, questo è il mio parere. Poi, ripeto, ribadisco, ognuno è libero a casa sua di fare quello che le pare e le piace. Stiamo parlando di radio e di problemi che possono succedere in questo contesto operativo. Poi, per tutto il resto, ripeto e ribadisco ancora una volta che ognuno è libero di fare e mettere a casa sua quello che le piace. Io non sono di quel parere, quindi le radio sono radio, le lampadine sono lampadine e rimangono sempre lampadine. Io ho una lampadina centrale accesa a basso consumo, rimane accesa 24 ore su 24, ho spento anche i faretti, perché anche i faretti che ho fatto, il sistema dei faretti, che sono faretti anche abbastanza costosi, bianchi, mi creavano un problema di alternata, quindi un rientro di RF sulla linea della 220, spenti, rimangono lì spenti, non me ne frega niente. Questo è il concetto della cosa, però per poter verificare il problema di fondo bisogna bugarne tutto, mettere solo la radio con l'alimentatore e provare così. c'è il problema, non c'è più, allora è tutto il baravante, sta attorno, bisogna cercare di eliminarlo, punto. Questo è il mio parere. Poi altre cose io non so cosa dirvi. Ok, detto ciò io vado a mangiare, vi saluto e ci sentiamo se ci siete dopo, altrimenti alle prossime. Avanti Ossi. Allora l'ho chiamato. Vabbè, sentiamo dopo là. Allora, volevo. Elio, ci sei? Sì, ci sono. Ascolta, mi ha dato un messaggio nel coso tuo. Chiamo veloce che per quella storia che mi è venuta stasera. Sì, devo chiamare. Ehi, poi già. Vabbè, già passa qui lui e poi andiamo da te, capito? Già c'è la macchina attaccata in macchina, quindi vabbè, una volta arrivati lì poi già ci dici tu dove andare. Ma non ho capito, ma ancora andata, tu sì? No, non sento che andata io. No, non lo sento, lo sento solamente qua per me, basta questa baracchina qua, chiamare di ZOZ, qua per me eccezione. Se ti dico la modifica che mi hanno fatto per uscire più forte ti metti a ridere, cazzo, in questo Midland, perché non è possibile una cosa del genere. Mi sono trovato un trimmer in meno, gli ho fatto il ponticello e ho sceso l'armadio. Cioè, tu ci credi, cazzo, che staccando il film è della M modulazione, non pare più questo cesso. Mi vedi che qualcosa del nostro c'è in ruota, che c'era quello di Ossi, c'era quello di Ossi, c'era quello di Ossi, c'era chiuso, poi Gianni c'era, Gianni c'è sì. Aspetta. Guarda, te l'ho scritto per il numero del telefono, telefonagli anche adesso, poi la rimette domani, viene e se lo prende. Perché ne deve vedere a casa tua, funziona, hai capito? Quello è... viene veloce, sono per dati, vabbè che non c'è il numero del telefono tuo stasera, ma so che avrei telefonato io direttamente dalla... e sai se lo stasera al limite, ma comunque sia. Niente, ci andiamo domani, quello che non ho capito, ma chi è quello che mi chiama oggi stasera? Quello che ero stasera più giù, sì, esatto. Spesso guardando. Thank you. mio marito da succede, non c'è radio qua. Così sembra che ti sei allontanato. Prega, mi viene avanti. Via, devi avere qualche problema. Guarda, se devo fare un salto qua a Sassari lo controlliamo, non c'è problema. Guarda, se non hai niente da fare, ci beviamo una mazza caffè e vediamo un attimino la situazione. Scusa, quanto ti sta segnando di stazionario? Ti sta funzionando e non è possibile neanche 1-1. No, Gabi, sei scomparso, tu hai problemi con la radio, a quell'antenna, non alla radio, all'antenna c'hai seri problemi. Ma che papà proprio? No, ma tu come lo occupi? Ma sto correndo. Io però sono una risultata. Vabbè, però, strano, viene ma di nuovo, Gabi. No, Gabi, sta andando male, non c'è qualche problema. C'è lo spezzone, se c'è uno spezzone in più, evidentemente c'hai in corto lo spezzone, non lo so. Peggio che mai, quando ti fischia l'amplificato, il microfono amplificato così, vuol dire che hai stazionarie. Antonio, mi senti ora? Antonio, mi senti? Eccolo, chi è che mi chiama? Perché non si viene ad ascoltare? Ma adesso si vede 9.30, io non capisco, non è per te. Tu capisci, sei rimasto come prima, devi avere qualche problema con l'antenna, prova a cambiarla, o l'hai già cambiata. Prova a cambiare l'antenna, perché non stai uscendo bene, non va bene, prova a passare in FM. Se mi ascolti c'è qualche problema, te l'ho detto. Ma sì, le stampe o M? Come? Viene avanti di nuovo. A tu, ma sì, ma M? Gabino. No, sei basso, non so che cosa c'abbia, però c'è qualche problema, ce l'hai di sicuro. Claude, mi senti a me? 9.30 radio 4, radio 5. Oh, io non ti capisco. Non mi capisci? No, aspetta che non stavo rispondendo a te. Gabi, secondo me quell'antenna lì, cos'è quella bibanda? Ma ascolta, c'hai spezzoni per caso di fra l'antenna e il baracchino, c'è qualcosa, c'è il rosmetro, quindi dovresti avere uno spezzone. Baracchino e antenna. Ecco, cavaniera la ciabatta, ti è trasira un attimino, vai direttamente sull'apparato. No, ma cosa stai usando? Baracchino che cosa? Io l'Ote 50, perché? E quanto va tutti, professore? 7 radio 2. No. A me mi senti male così. Io sono professionale, non si sentivo qua. Comprensibile. Qua riesco ad ascoltare. No, adesso ti sto ascoltando bene, aspetta un attimino, ma perché che problema ho io? No, sono professionale sicuramente sei larghi fuori qua. Non amatoriale, è professionale. Prova a rimetterla adesso, guarda, ho stretto, prova a stringere un attimino se vuoi. Io se vuoi posso stringere. Aspetta un attimino. Proviamo da 6K in trasmissione, guarda un attimino. No, per me va bene. Va bene. L'altro è troppo largo, era un. Ma adesso ho stretto, ho messo il filtro a 6K. Prova a stringere ancora, 2,7. Troppo stretto. Guarda, va bene, no, qua dovrebbe andare bene a 12, dai. Un culo, eccolo qua. A 12, cioè due canali. 12K. l'altro sta aperto dal canale, che altro che se va, non ti sento. Qua deve andare di grande da me e sparare se mi sta facendo. Aspetta che mi sembra che te... Gabi, cosa hai detto? Dimmi. Ascolta, no, io ho il sospetto che tu quella ciabatta l'abbia montata nel contrario e sei sicuro di aver rispettato le connessioni? No, non ti ho capito adesso. Ho capito, anche qua non è abbastanza alto, però... Aspetta un attimino. Qua non ci vuole neanche stazionare, quindi... Prova un po'. Com'è? Se adesso sei 9 radio 5 però ti stai portando dietro un innesco, prova una portante muta. Sì, ti stai portando dietro un innesco, te l'ho detto, forse c'è qualche po' di stazionario. Tipo rumore di vento. Sì, ora le guardiamo, dai. E no, questi microfoni amplificati quando c'hai i stazionari tendono a innescare, a fare casino. Ma no, la batteria carica di quel microfono? Sì, è carica, sono batterie sole. Vabbè, se è carica possono essere anche Duracell, ma... vediamole, dai. Secondo me, ti ripeto, è solo una questione di piano di massa che sta un po' creando problemi, oppure c'è qualche problema al coso, ai PL, come dice qualcuno. Adesso cambio il microfono. Guarda la garza. La garza. No, Graziano dice, mi sei saccato la garza del microfono. Bisognerebbe scrivere un libro, Tira la cima. Allora, che ha portato il reddito, tira la cima. Tira la cima. Oh, Claudio, qua non è com'è questa radio, va bene lo stesso? Sempre la tua modulazione, sempre quella, Allora sì, volume normale, non c'è bisogno di aumentare. Sì, vabbè, ti sei abituato al microfono normale, noi siamo abituati al combattimento, non è... Beh, non è tanto normale, il microfono è da guerra. Sì, io ritengo anche da guerra, sì. No, ma è vero, qua aumento un po'. Ecco, poco a poco, è aumentato poco. Va bene, Giacomo, ti conosco 50 anni, quindi non ti ho mai sentito né amplificato né collecco, sempre piano piano, sempre... Va bene così, la tua modulazione, 5 perfetto. Ah, così deve essere. Va bene, 5 perfetto. Dammelo di comprensibilità, che è meglio. Comprensibilità totale. Ecco, così più professionale. Va bene, va bene. Tutto che fa di qua. No, sono qua. È il mio. Sono qua, Claudio. E cos'è tutti questi sensibilizzoni che vai in macchina? Ce li sento io, bivi, cos'è? E ora? Anche adesso, solo uccelli. Boh, non lo so cosa c'è qua stasera, ieri sera ero perfetto qua. Boh, guarda, sta diventando un problema. Quello non rientro, devi verificare la roba. Non so, io ti sento tutto a fischio, anche tu a tutto. Sì, è un po' come, aspetta lontano il telefono, è un po' come quando, cioè io ho troppo stazionare in antenna e c'è un microfono amplificato e crea quel problema lì, oppure deve avere qualche falso contatto dei pieli. Ho cattiva massa. La garza, ho messo il ZG. Che cosa? ZG che cosa? L'M95, il microfono. No, vabbè, ma cosa c'è? Lo slide? Prova a abbassarlo un po'. E ora? Oh, sempre a bruci, tutto bruciato, sì. Ma già si risolve, non è un problema. L'hanno casino. Ma cosa fa una domanda, Gabriele? Ma che microfono è radice, non andate a vedere. Adesso ho piatto. E metti, mettiamo. E quello quando scende lungomare e balai, quindi si rammani. Dove sei arrivato? Gabriele, dove sei arrivato? Aspetta, cambiando il microfono. Un po' di soldi, un po', neanche la metà. No, è vero, è meglio, però c'è sempre quella specie di innesco sotto, di prova a schiacciare portante muta, capito? No, adesso va meglio, prova di nuovo. No, adesso l'hai eliminato. È l'umore della macchina, un ben predicato quello. È bellissimo quel microfono, cosa di buono a pulirsi dal dettaglio, ma hai capito qual è tu? Quelli che vende Fusaro, che vendeva prima, adesso li ha riportati, quelli da Palma della ZG che qualcuno c'è anche l'ecco. Ce n'ho, ne ho uno qua che sono, però va bene, sulla seconda cosa va bene, io piloto il pilotto esattamente quel Mobicom B45 che mi avevi fatto comprare tu da Luca. Ed è perfetto, ed è lo ZG, quello del più gaggato, sembra che sia il 90, boh, il 93, non lo so. E quello arancione, da, per capirci, portavano 18 euro, 20 euro, adesso non ricordo. Cioè vanno bene, vanno bene, cioè con lo grumetti già va bene. Antonio, Gianni, sembra che vive in macchina. ce n'era neanche qua. Vabbè, io ho rimesso la mantola, prima l'avevo staccata. Mi sono riattaccato la mantola, la camilla, tirata su, messo tutti i radiali nuovi, pulita, ordinata. E quindi funziona bene, ma sto usando la direttiva dei 10. Non c'avevo troppa attenuazione, quindi non mi fanno, a volte sentivo, segnali forti, a volte segnali deboli, e allora l'ho rimessa dove era, e ho agganciato questa che funziona meglio. Avanti, Gianfranco. Sì, ok, non sono più abituato a parlare in AM. Cosa volevo dire? Non lo ricordo più. Vabbè, riprendi tu, classico. Sì, sì, ti ho abituato a parlare in AM. Non è la stessa cosa. È sempre uguale. Io non sono più abituato a parlare in FM. Perché è una cosa che non mi... perché cosa mi cambia nella vita? No, è una cosa mia proprio, non mi è mai piaciuto parlare neanche, devo vedere lo strumento che si muove, questa cosa fissa, qui tutti allo stesso segnale arrivano, tutti 9.60, non mi è mai piaciuto la verità, senza nessun problema, però non mi è mai piaciuto. Io continuo a sostenere comunque che una frequenza, cioè un'onda anomala, nel senso che realmente se tutti noi l'aeronautica non parla nessuno in AM, se non in broadcasting, ma in frequenze bassissime. Non so, è una cosa che non mi è mai piaciuta, ma da sempre, non da adesso. Non l'ho mai, sì, qualche prova, qualche passaggio così, ma no. Fare così a non mi è piaciuto, ma vabbè, pensiero di inizio comunque, quando la gente parla in FM, anche io parlo in FM, non è che, ma non faccio più la M. Dove sei arrivato? Dove? Io sono davanti alla maison, Antonio, scendi. La maison delle Bouton, dove è la maison? Dov'è la maison? La maison. Ah, la maison, sì. Arriva, arriva. E già scendere un attimo. La maison è quella che c'è nel curvone di via Budapest all'ingresso. Positivo, positivo, Antonio. Sono... dovevo girare la via dove c'è coso. Passi più. No, negativo, tu molto prima trovi la via, c'è una specie di bivio per girare a destra per andare in via Parigi, giri a destra e poi ti rigiri subito a sinistra e ti mette in una via parallela dove guarda che c'è un'armeria anche. Ma dove c'è il panificio tu? No, via panificio, devi girare a destra per andare via Parigi, però subito appena hai girato a destra devi rigirare a sinistra, ti mette in una via che ti porta in largo Buda, perché è una via alta, diciamo, rispetto a un cavalcavia, diciamo. Sì, è questo. Sono arrivato alla rotonda, la prima rotonda su in alto. Giro la rotonda a destra e poi subito a sinistra. Ho capito, abiti nel palazzo del perito, Antu. Dai, sono arrivato, sono giù. Cos'è? Perché il tuo casino? Cos'era? Nel palazzo del perito, abiti, perito? Del perito. Ma in FM, sì. È sotto di te, per favore, lo senti così. Ma sei arrivato? Positivo. Ebbè, Antu, ebbè. Adesso ti sto sentendo bene. Dove sei nella piazzetta? Positivo. Dammi 2 minuti, sto scendendo. Ti aspetto. Passi 9 più 40. È buono tu, ma è buono, qua è buono. Beh, sono a 100 metri da te io. Lo so, ma non ho capito. Può essere ha preso qualche colpo questa antenna qua. Può essere anche qualche ramo d'albero o qualcosa. Ma certo, sento bene, non ne hai di rumori, di inneschi, non c'hai niente, vai benissimo. Ho la macchina spenta adesso, No, la macchina spenta. Che strano. Ora spengo la ciabatta, Fla. Com'è, Fla, com'è? Sei sceso a 9:20. Non so se Gianfranco ti ascolta così, Gianfranco, lo senti a cammino? Sì, fondo scala. Tranquillamente, fondo scala. No, vabbè, sei davanti a lui, quindi... Adesso spento la ciabatta. Non lo so cosa può essere, io le antenne le salgo a casa quando non le uso perché mi dà fastidio tenere in macchina. E può darsi che magari pulendo l'abbia presa, l'abbia disaccaduta. Cosa ne so? Ma più che un problema l'antenna mi sembra un problema proprio di microfono, perché adesso sta facendo benissimo. Gianfranco ha detto che ti sente benissimo, fa lo scala, sei davanti a lui. Davanti a lui, qua invece sei calato un po', perché sei dentro proprio quel quadrato, quel recinto, cioè ti parati sotto. Ho spento la scarpetta qua, ho spento il lineare. E non bene, 9:20, sì, non c'è problema. Sì. Comunque, oggi è la giornata di Ricci. Giornata di Ricci, stavolta stavo lavorando, io sono Ricci. La settimana ho tirato di brutto, anche sabato tutto il giorno, fatto sabato mattina alle 7, 6, 9, 5 pomeriggio, poi ho lavorato anche stamattina, quindi oramai abbiamo cambiato cavallo, bisogna trovare, capito? Oramai la regione non vuole più sapere di gente fannullone. Così è già fatto. Ma fa la seguente, ha detto che la regione cosa non vuole? Cioè te fanno l'uomo. E allora probabilmente non c'è più nessuno. Io sono passato a Enas, lui. Ma no, per me si può anche indicare. Io sono passato davvero inizialmente, dove ho vinto il concorso. Basta, non ho più niente a che fare con quella gente, perciò adesso sono nuovamente rientrato nell'ente e sono tornato alla normalità e quindi faccio il mio lavoro, finito le mie ore, mi vado a casa tranquillamente e soprattutto sorridente, beh, perché mi hanno rimesso in busta paga ciò che la mamma mi ha tolto. Con la macchina? Sì, c'è sempre la macchina di servizio a casa, macchina nuova, rinnovato, bianca, e ho ripreso il mio grado che avevo prima, assistente tecnico, nella conduzione e le manutenzioni, con il mio stipendio che avevo prima nel 1998, no, mi hanno fatto i figaroni che nel 2005 mi hanno tolto 400 euro della busta paga. Vabbè, tanto tra poco sarà già in pensione. Vabbè, su quello non ci piove. Al 1 luglio 2017, esattamente. E allora, in questi 2 anni, tra poco. Vediamo. Se l'ente mi chiede di rimanere, posso anche rimanere, non c'è problema. E ti piace? Il mio lavoro è bellissimo, mi piace sì. Mi piaceva con quel tipo di sistema che usavano qui quella gente lì. Ma il sistema che c'era prima mi è sempre piaciuto. Adesso sono tornato alla normalità. Va benissimo alla grande, come ti muovi sei risarcito, invece lì più ti muovevi e meno eri risarcito. Ormai c'è rimasta la tua regione, ma noi ovunque ti muovi non ti danno niente, ci deve essere parlato. No, c'è Antonio che sta provando, sicuramente le stazionate. io sento fischiare, ma il segnale è bassissimo. Sono strano, sto in un garage. Forse è sotto, non so. Io sono così povero. Ah, polarizzazione orizzontale, sì. Sì, sì. Così povero multibanda. Ma come quello che ho io, quello ragno. No, quello è ancora a terra. Quello da 70 metri. Non c'ho quello lì, minchia, con 1200 watt, mi sono venato, schioppetta alla grande, va benissimo, proprio bene, bene, c'era Marco l'altro giorno qua, venuto a trovarmi, adesso basta così, quel torrino che c'ho, faccio stare dov'è, al centro del palazzo, ci va quell'antenna lì, senza tirare su all'impicco, va bene così, vedrai che rulla forte qua su, ma forte mi, forte rulla. No, io ho quasi finito, devo mettere ancora due o tre settimane, devo mettere su la transenna, ho riparato, e le altre due HS. Dopodiché abbandono tutto e mi dedico al mio hobby preferito, che non è questo. Ma sempre verticali o filari? Tre verticali e una filare, lo stesso di 80 metri, credo, di lunghezza. Vabbè, tu c'è il terreno, io ho 50 metri per 30, quindi vabbè, la filare che c'è che è 35 metri, quella la scaletta, e tra l'altro quella la devo togliere perché sennò non ho spazio per la direttiva, quella si conserva e si lascia quella direttiva lì, più gli altri tre che ci sono. Quella per i 6 metri, per i 10 e per il VHF, quelle le lascio perché poi voglio fare le comparazioni, perché una monobanda per i 10 ci vuole sempre, poi quella fischia parecchio l'antenna, mi ha dato veramente, mi sta dando degli ottimi risultati, molto molto bene. Lì c'era stasera l'oceano Pacifico, 10 metri. Sentivo basso, abbiamo girato l'antenna 5-9 più, l'antenna fa pancinetto, ma funziona. Ok, sono anche le antenne anche. Sì, Marco dice così, però un altro elemento, ma lo manda per i 10 metri. Uncinetto, anche quella si mette e fa uncinetto da quattro elementi, quella era di Antonio Bio, è passata a me quando lui ha messo quella contro i due, quella ci aveva fatto, non so, sei elementi, quattro elementi, non so. Ma non per HF, perché Antonio ha le verticali, a meno che non sia... Sto parlando di Antonio Dio. Ehi, quello di 6 metri sto parlando già fra 6 metri, 50 MHz, da 4 elementi che ho io di Aggi, era di Antonio. Antonio ha messo quella di Walter, non so se quanti elementi è, a me mi ha passato quella, ho preso quella lì io. No, capito. No, non ci parla mai, non mi interessa come. Non c'è niente. Io vabbè, non c'è preparazione, io ci do tutte le antenne, tranne gli 80 metri che proprio non è che ci vado male, ai 160, ma non mi interessa il letto. Mi interessa più i 10, 15, 20, 40, 6 metri, ma il VHF, c'ho 9 elementi per il VHF, sempre gli altri, 40 anni. 7004. Sì. 7004 c'è un'antenna di 6 metri. La direttiva dei 10 è quella del verticale 510, che poi non è più 510 ma è la 7000, poi quella delle VHF è collegata al PS700, è un amplificato da 200 watt, sempre con le VHF in banda laterale, 144, e poi il 1000 fa 15, 20, 40 litri con la filare che mi ha dato Marco. Basta, poi piano piano sistemeremo tutto il resto. Oh, io ho il 2000, credo che vada, dovrebbe andare anche lui in banda laterale, ma non l'ho mai usato, io volevo a casa in banda laterale. Non mi interessa. Io non ho mai fatto niente, ce l'ho, capita qualche volta, si fa qualche prova e la facciamo, cioè adesso non faccio più niente, quelle per me sono frequenze morte, non esistono più, quindi dico solo le FF, sono qua, baracchino 3x9 27. Fa quello che lo diverte e poi lo fate divertire, fate solo a noi. Infatti, non mi diverto, sto un po' qua quando c'è gente, siamo HF, 10 metri soprattutto, 10, 20 e 40, poco i 15 metri, però la maggior parte la passo in 10 metri. 10 metri, 40 metri, 20 metri, sono sempre io, soprattutto in 10 metri, e poi sempre qua, in 11 metri, tutti i giorni, frequente, continuo, vediamo lo sponsor di questa antenna, Gavi, è bene? Break. Armando, è tutto. Buonasera, mio hermano. Buonasera a tutti, dai, non so chi ci sia, adesso dai, non ho fatto ascolto, mi occupa. Se sei parito, lo va bene se sei parito, ma si sono mangiato. Sono io, Gianfranco, poi c'è Antonio Grobbe, in tandem con Gavino che stanno messo l'angolo stazionato. Avanti Gianfranco, Gianni. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Ma sei in macchina? No, non sono in macchina, è che ci sono televisori accesi, tutto quanto, se adesso chiudo la porta, detto a mio figlio di chiudere la porta e l'ho lasciata spalancata. Mia, sta qua, ma sto scambolando, ma lì. No, per adesso no, ma sai com'è? Non sono una buona anima, per ora, poi... E ho fatto che sei così in basso di radio. Oh, vi mettete d'accordo, so, quando passa il 27, alza, bassa, scendi, sali. Ma tu non fai come ti risucchi, che è troppo muta, vedi una via di mezzo. io mi fido di... Oi. Sì. Adesso hai mancato un pochino. Sì, adesso fa anche andare bene. Mi sento... prima dovevo alzare il volume. Non alzare il volume per sentire. Spegni il rullatore però. Ciao Antonello. Ciao Fra. Ciao dottore, ma... perché si è anche sollevato un po' di più di modulazione, verità scritta, sembra che sia dentro un bunker. Mica mi fanno mica chiamare, cercami il carabinieri, no? Aumenta, di radio. Adesso ho provato lo spento, bene va. Un po' strano, diciamo. ti ricordavo un'altra modulazione, sarà perché ho usato sempre lì. avanti, Claudio. Non ti piace, va, questa non ti piace. Sì, vabbè, Gianfranco, c'è scusi. Ma io ti ho detto la tua modulazione, come sempre, poi che era bassa o alta, io non mi ho fatto caso, cioè. Qua nel 27 noi siamo abituati a pompare, a pompare. Chi più ne ha più ne metta, vero, molto pompa. Già è vero quello. Mi ha parlato come gli anni di piombo di tanto tempo fa, che si pompava 600 e quindi il muro di Berlino c'era carbonato, figurati, l'altro vero c'è per i fatti suoi e noi per i fatti nostri eravamo. Infatti è durato un mese che sono allo schiattato. Vabbè, purtroppo è così. Troppo di niente, vabbè, dai, io vi saluto, spengo tutto e sono tutto il giorno qua in radio, me ne vado un po' per la TV e poi me ne vado a nanna, che domani la sveglia canta alle ore 5:30. Ciao Gianni, Gianfranco, Antonio Grode, Gavino, a te Antonello, chiunque fosse in ascolto, buonanotte a tutti, alle prossime, vai Gianni. Voilà, ciao Claudio, non corretti da. Avanti Antonio Grode, sì, che lo fantasma. Avete detto Antonio da. Eia, ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime, stavi bene, buon corretti, buon tutto l'ora. Già, quello sto scendo, di modulazione, che sembra buona, amplificata lì questo baracchino cicafuso modulato. Sì, adesso sì. Adesso sei amplificato, ma stasera non ti sentivo amplificato. Questo è l'altro, questo è di balacchino di cosa? Di Giampaolo, la verità, non è mio. L'ho sistemato stasera, sono con il microfono della presenza della team, un video prima, in salerta. Ti ho cambiato la capsula, gli ho messo il un altro tipo di capsula e secondo il Bravo Plus. Guarda, l'altro è c'è un altro braccio acceso e le cuffie devono essere a zero quasi, perché talmente amplifica che è la cosa allucinante questo baracchino. Non ho mai visto una cosa del genere, cioè ho visto la musica che l'avevo fatto, però non pensavo che pompava così tanto, la verità si dica, poi non lo so, così a 10 l'amplificazione del sonetta, così sto diminuendo, ecco, adesso ho diminuito di a 8 sono, qui, ok, vedo che pompa. E quello del baracchino è Milla. Ah, però capito, dopo... Cos'è il Midland il baracchino? È un Midland, non so neanche che modello sia, perché è tutto scancellato. Carlo Smith ha verde, giallo, rosso, e c'ha le 5 memorie e 4 manopole, e poi tutti pulsati a fianco, che non mi ricordo neanche che modello sia, detta. Comunque per essere quello che fa veramente bene, c'ho la specie di cugino di quello, vabbè, ce l'ho qua e devo vedere un po' di vedere come si esce così, come con l'altro, con questo là, che altro, con questo microfono qui, comunque il pezzone va bene, quindi non c'è nessun problema. Comunque pompa. C'è una bella radio, una radio chiara, amplificata, non è in saturazione, non c'è niente, non è cupa, quindi vabbè. Per essere un gatto va benissimo. C'è 40 canoni MFM. Cava gara. E non lo so che il Midland va bene con quel microfono, perché il mio, il 48 plus, non va bene. È una bomba. sì, ma qui non hai capito, qua io quando l'ho aperto stasera mi manca il film della MM, della AM Modulazione, mi ha staccato il trimmer della AM Modulazione e quando sono andato la stasera a agganciargli il trimmer del fatto l'attacco diretto, cazzo, è diminuito la modulazione, quindi in pratica mi hanno fatto un tipo di modifica, staccando il trimmer aumenta molto il doppio di amplificazione. Hai capito quello che voglio dire? È una cosa un po' strana, perché non so chi abbia fatto questa modifica, tutto quanto modificato, c'è cioè sono pochi di punti strani. È un barattino trappato, non so se l'abbia recuperato, comunque un barattino trappato, però esce bene, esce veramente bene di modulazione. La verità, non pensavo che, certo, staccando un trimmer cioè della M modulazione si portava così tanto, la verità. Ma cosa è che bello, vita mia. Cosa l'ha attaccato il trimmer e l'ha fatto il ponte, Luigi? Non gli ha fatto nessun ponte, non c'è niente. Staccato solamente il trimmer e basta, non c'è nessun ponte. Quindi mi ha interrotto la modulazione, si va tutto regolare. Aspetta, Troiano! E beh, tu che fa qua? Ma c'è Claudio, ha fatto così, ciao Gabri, non senti, vieni avanti. Gianni, mi fa un controllo, come ti sta arrivando? Allora, vieni avanti che controllo bene. Come Gianni, come questa radietto? Sì, 9.15 Radio 5, dove c'è? Sto innescando già. No, ma da fino? No, sono a Sassari già. Ah, pensi di via, ma da sabato c'è l'antenna a casa? No, no, l'antenna quella che era la tua. Ah, va bene, va bene, dove c'è? Sono vicino a via Milano. Ah, vicino, sì, io mi faccio dopo l'uovo, diciamo, passi qua sotto. Ma questa non è la Carassu? Cosa già? Ma lei ha fatto il QRT, perché verso Carassu a Taverna? E come va, come va? Buon pugno. Ehi, aspetta. Ciao, Gabi, sono tu che ti hai sentito. Ho detto, sei vicino a casa qua. Se ti faccio un bello, se sei qua vicino al cerchio di radio. Ma c'è dei fischi fiaschi, chi li ha fatti? Tu o Gabri? Non ho capito, perché avete ricordato subito le scene. Fischietti da tutte le parti, invece. Aspetta, Gabri, dove sei? Sono vicino a via Milano e mi sto facendo un giro, però avevo problemi con l'antenna. Adesso sto provando a parlare perché avevo un po' di stazionari. L'altra della macchina è la casa. Quella della macchina? Non è controllata, non è sistemata, se smetterò, boh, controllata l'hai. È positivo, l'ho controllata, l'ho rosmetro. Infatti ho chiesto a Gianni una prova a radio, ma mi ha detto che va bene. Bisogna vedere quanto c'è il cartone, cosa ne so io. Sai cosa controllata con rosmetro, se c'ha le 2 o le 3 va anche bene, capire, ma se c'è di più non va più bene. Ho 1 e 3 o 4, ma con lineare positivo già. Va bene, lasciala così, è perfetta. Ha voglia, ma cavalca. Io sono qua, se tu sei a Milano, basta fare rotonda. E da qua, cioè da Milano a Via Calofelice, io abito lì, quindi già hai capito dove sono di fronte alla Salvatore Occulti. È positivo, l'ho fatto. Dove quando mi vuoi portare quel microfono, te lo modifico, non c'è problema. Sta a te. L'ho detto a Glonda l'altro giorno che di questa modifica, ho detto che me lo fai che sembra una lavatrice. Sì, più di una. Basta chiedere a Luca e gli ho detto io come farla. Cioè se avessi chiesto a Luca sapevo che la mattina ce la fa. Vabbè, ognuno può dire ciò che vuole gli altri. Gianni. Mi confermi allora? Si cambierebbe la cazzo, quantomeno. Se la raccapo sulla latte va bene, va meglio. Sempre che viene esce una volta, tanto non è ancora di quelle capsule. No, ma deve metterci il papà, non è questione di capsule, è questione di trim, meglio te lo ricordi. A Luca gli ha fatto cambiare i trim, tutti e due, e come esce con quel 1,100 m? Ci sei, cioè, già hai sentito tu, non è che sto facendo cazzate io, quindi... Sì, prima le avevo cambiate anche io, ma le mascacciate le avevo cambiate io, usciva il Duke. Sì, cambiando di più mi riesce il Duke della modulazione. E quindi la lavatrice, capito, dipende da uno è tecnico, l'altro invece fa le... E come si dice, l'impianti di antenna di TV delle palazzi degli altri, quindi non è cavapiri del TV, io invece, grazie a Dio, mi sono mangiato, non le faccio il TV. Antonè, dimmi. Ma lei ha cambiato la brisa. Ho capito. C'è una specie di titolo di giocato, aspetta un attimo. Mi piti, a tu? Ma hai cambiato la brisa? No, non cambia niente, è sempre così, non ti preoccupare. Comunque sia, già lo sai anche tu, Anto. Le modifiche le ho fatte sui trim, quindi non dire fesserie. Già lo sai anche tu. Se vuole uscire bene di modulazione basta cambiare quei due trim, uno da 100 e l'altro da 120. Le 300 esce benissimo, non c'è neanche bisogno di cambiare la capsula, perché se vuoi cambiare la capsula, cambia solo la cavalletta della modulazione, basta, non cambia altro. Via adesso. Tutto lì. Per il TV hai, te l'ho detto, basta cambiare le antenne. L'amplificatore ha eliminato i problemi del TV. Yada. Sì, non ci vuole molto. Il problema è che l'amplificatore una volta erano quelli di cessi, 30 euro, mettevi l'amplificatore e andate. Non c'è neanche la centralina. E quindi purtroppo si prendono i colpi. Come è successo a me, io ho finito, ho preso la centralina nuova, le antenne da becco, ho risparmiato e nessun mi ha più rotto le balle. Mi ha fatto dire sto bene, mi ha fatto così. Falcone 2. Il problema non è sempre niente, il discorso è quello. Tu devi mettere in testa anche tu, perché se tu dici io devi cambiare l'antenna, non è che dovevamo bere la prima, non c'è bisogno, no? È un balacchino quello che ha problemi. Purtroppo è così. Bisogna fare la spesa, devo ancora ti posso dire, 14 euro una, 14 euro l'altra, sono 28 più altre 40 euro di amplificatore, c'è la tronca in culo, loro dove è il condominio. Più 40 di nuova opera, la rigurta, via, avanti Marco, buonasera. Allora la verità, mi ti sto dicendo la verità già, perché sapete a me, capito qua, quindi a un certo punto cosa devo fare, perché ci ha legato il condominio. Mi sono comprato le antenne, la bricome, le ho trovate io, mi sono pigliato, io ho comprato anche il me ne sono pagato con le spese mie, poi ho fatto l'impianto di qua, le cose, gli ho fatto la fattura a nome mio e ancora sono a pagarmela, figurati. E sono in causa, perché sembra che sia la, come vogliamo, la paga gratis la gente, capito? Vuole avere televisore ma la paga non la paga. Santone, è capitato anche a me, ma l'ho fatta pagare al condominio, mica l'ho pagata io, stanno freschi loro. No, è capitato anche a me, la Brasica, l'antenna, e la scatola dove c'ho i figli, c'era l'attore, era tutta aperta, con la paga, il valore, tutto grande. e alla fine hanno dato ragione a me, hanno mandato un tecnico, ha fatto il verbale, ma come lo faccio a suo favore, non contro di lì. Io volevo mettere un filtro, ma non ci vuole più filtro, qua ci vuole l'antenna nuova. Come ti ha avuto l'antenna nuova, ho fatto la prova, adesso lo faccio le figure. Ma se ti ricordi bene, l'antenna del, cioè l'antenna dell'amplificatore è stato fatto da Osaimi di quel fatto che abiti tu, quindi ti ho detto tutto. E ha messo l'amplificatore da 20 a 25 euro, meno di più, non ci ha messo la centavina, le antenne sono quelle che era. Di Bertola, siamo stati io e Manuele di installare le antenne, stavo succedendo per quel buon tipo lì. E figurati tu. In più la parata era quel coglione che ci ha visto all'ultimo piano, quello che era, non so se era sposato, quello che era capovera con quella tipa lì che si bisciccia. Quindi so come ha fatto l'impianto, quello che ho detto, cambia tutto perché è meglio. Ma non c'è la regola. Sì, quella lì, te lo dico di fatto, sì, quello che è lì sopra. Ma sono giugno più in basso. Esatto, quindi te lo facendo per quello, siccome sulla te, non ti sto facendo balle, ma soprattutto sopra il catrame è tutto fatto in ghiaia, o mi sbaglio? No, non ti sto sbagliando, è così. La parabola non ce l'ha più, non lo sa la studia, che gli ha fatto il campanello, sviluppo, già mi fanno una cortesia, che stavo a mangiare, cosa c'è? E il vento mi sta buttando giù la parabola, non so come fare. Sono dovuto salire, smontargliela e tirargliela fuori perché la stava tracciando dal muro, chi l'ha aperta per quella parabola. Quella che è frattata o l'altro, non sai, io la parabola l'ho messo ai 20 per esattezza. Non era 90, non metto un 20, era beige di colore, non mi sbaglio. Era tutta rugginosa, come il mio potere è tutto rugginoso. E comunque in ogni caso gli hanno messo il tassello di quelli corti, cazzo, per forza che non ha finito, come è venuto una folata di vento, gli ha fatto la vela, cazzo, e praticamente l'ha fatto la paravento, va. E con la forza del vento l'ha tracciata la nuda, addirittura è stata cadendo qua di tutto. Siccome è imbranato, non sa fare niente, la chiamo a me, sono dovuto andare con la scala, cazzo, da arrampicarmi, sono dovuto salire sul tetto, gliel'ho sfilata, prima l'ho mollata da giù, poi dietro di canella, gliel'ho sfilata da sopra al tetto, sono salito sul tetto, gliel'ho sfilata da su e poi gliel'ho passata. Cazzo, allora, mi pare che è ancora bulito. Ma no, sarà così tutto com'è, a tutti i titoli di chissà, ma qui c'è quasi tutto lì. Ma guarda, tutto davvero, mi cazzo, quando non ti potevi fidare, mi cazzo. Poi sai che se arriva, se si arriva sopra, ti avevo mangiato la testa, perché non era possibile, ero l'assillo, ogni 5 minuti veniva, cazzo, non potrebbe le balle. E tu mi dici, dove sono le cose? Poi se ne vai a toccare solito di mattino, perché per me sono le balle piene. Aspetta, vediamo se c'è Marco, che questa va di solito, Marco, ci sì. Tu a volte ti tocca, Antonio. Vai in giù. Ecco. Avanti. E buonasera, ciao Gianni, ciao Alessio. Ciao. Ehi, ciao. Beh, sentito, salutoni. Tutto a posto, sì. Ma fanno gli antenne, gli antenne di televisore, che guai, e via dicendo. Vi siete sovrammodulati. Già, riprendi. No, oh, sì. Ho detto, stavamo parlando di antenne e televisore. Ah, capito. Praticamente, no, io sono un pezzo di film, ma non mi piaceva. Guarda, provo una sigaretta facendo l'apparato. Ma quello comico. No, parlava di questo che prendeva queste pillole, diventava un mente intelligente, parlava tutte le lingue, giocava in borsa anche e faceva i soldi. Posso vero? Ti proprio ho scoperto che praticamente li stava provocando la morte queste pillole. No, cazzaro, non va niente. Hanno lasciato un articolo su Herbalife, su un giornale, c'era scritto Herbalife è una truffa, un interrogativo. Ah, poi io non ho mai usato queste cose, sinceramente. Ma natura, natura. Io sì. ma fa dimagrire, dice. Fa dimagrire mangiando o non mangiando praticamente, perché tu mangi un pappone, ti riempie lo stomaco e non mangi altro, però praticamente non mangi, per quello dimagrisci, questo pappone ti gonfia, senti gli altri che mangiano, i commenti, io me ne levo al computer per non sentire la gente mangiando, capito, i commenti, è buona questa cosa, è fatta fare la spesso perché è buona, le porchette, i coltivi, no, ma c'è tutto il rumore dei coltivi, le porchette come quando non mangiato, se ne guardarai. Ma fai la cosa, fai la dieta di banale, 145 dollari al giorno. Perché sta scritto? Hai visto quella ieri sera in televisione? Quindi a 145 banane al giorno. E la scesa del peso, capito? Si faceva sul latte, poi l'ha fatto per 2 mesi e mezzo. Tu dovete vedere adesso quanto è buona. Tu, sempre banane mangiata, un giorno a 145 banane. Figura di zucchetti, boh. Io per me mi sarebbe piaciuto anche il pisello, cioè, di fare le banane. Per bene, io, come ascolti? Bene, sì. Sì, sì, no, ti ascolto bene. Io ho il terrazzo. Cosa? Sì, c'è la terrazzo, la terrazzo. Cosa hai detto? Ha detto che adesso non ne hai, ti sta ascoltando in cuffia. Adesso invece ha detto che ne ho un buco. Sì, se ce l'hai, però prego. E se faccio così? Cioè? Adesso non c'è più, visto? Non so, vabbè. Devi... te vedi, gli apparecchi lontano, ma l'imitatore purtroppo. Il difetto è quello, come lo facevo io, mettevo l'imitatore attaccato al timbre, quindi se è pronta. Quando parlavo con la ventola, l'imitatore, era un casino. Siamo sempre alternato, fischi, cose del genere, quindi... un po' con la... cioè, il posto era poco, non ci potevo fare un cazzo. Ok. Io sono preso di trovare questo detto. Come se ne usare il primo? Sei, così sono a 5. la pescatura è 5, e mai che chiama lettone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda, sto guardando, guarda. Saranno le cuffie che fanno rientro, non fa per tutte le cuffie. Vabbè Gianni. Vabbè Gabri, ti ho chiamato poco fa e non mi hai risposto. E quando? Poco fa ho fatto l'appello, ho chiamato a tutti e ho detto Gabarinto. No, sicuramente stavo. Perché stavo guardando l'antenna. Con lineare 1.4 è giusto, 1.4 con lineare e 1.1 al massimo senza. Sì, infatti senza lineare sono 1.1 neanche. Ma se te l'ho detto che era perfetta quell'antenna, l'ho registrata io. Ce l'avevo un po' di nero a 1.5 1.6. Quando? Prima di alzarla, perché l'ho dovuta sollevare tutta adesso. Perché io l'ho regolata in base alla macchina mia. Positivo. No, adesso l'ho alzata tutta e sono 1.4 stazionale. Ma 1.4 con lineare? Positivo. È giusto, 747 era così, da 1.1 passa 1.4. Ma se c'è per il limite, è a 2 che preoccupare, 1.5, 1.6. Se sono riuscito a portarlo così o 1.4 va bene, dai, no, cosa vuoi prendere? E che comunque sto scendo con 50 all'anno. 50? Positivo. Quanto dai più? Cosa già? Come la macchina mi dà già 80? E magari tu hai la batteria più grande già, io sono con la 600 oggi. Con la 600? Con la nuova. Cosa già? Ho detto con la mia o quella nuova. Positivo. Chi è avanti? Avanti, chi è che avanti? Ripete di Alba Taxe, come effetto ecco. Chi è con voi? Quello della Zanussi. Lasciano dire che non capisce una pera. Antonio. Ciao Gavino, mi ha ascoltato. Come sta arrivando Gavino? Da dove sei partendo di tutto? Aspetta un attimo. Ora. C'è un fisco sotto comunque. È 1.100 quello. Cos'è comunque? C'è un fisco sotto quando stavo uscendo con le 1.100. È un baracchino modificato sicuramente. No. Gli ha cambiato il team. Ma lo passo. Lo conosco io le modifiche. Fotti il bini. Tu non ti ha cambiato il trimmer? Io non ho cambiato niente, è stato bello Antonio, lo sta cambiando. Capito? Luigi quando lo cambia i posti di fisco nel 1.300 è simile, l'eco più lento però c'è il fischio, lo sai anche tu. L'unico microfono che è uscito bene nel 1.300 modificato è quello di Luca, senza fischio, senza niente, 100k di amplificazione e 220 kg di eco il trimmer. L'unico è lui che ce l'ha, perché gli ha dato il signor Giovanna i trim, è una bomba quello del 1.300, l'unico è uscito bene. Antonio, eccolo. Com'è? Tutto bene. siamo venuti a protestare qua, che avevo con le lineare, avevo spento la televisione. Thank you. faccio, poi io vi memorizzo il numero di telefono di questo, non c'è problema. Elio, dimmi Gabriele, come mi stai comprando di lì a Usi? Benissimo, benissimo. E come ti arrivano un po' basso? Non lo so, sono da un altro apparato. Ah, ho capito, ho capito. Vabbè, comunque l'importante è sentirci. Cappa, cappa. Oh, mi arrivi forte, mi arrivi forte. A me con gli ascolti, Gavi, basso di radio scommetto. Ti ascolto benissimo, compro benissimo. E Gianni, che dice Gianni? Gianni, è andato per un video. Tanto sto. Tanto perché stamattina sono stata la mattina in piedi, sono andato a fare il servizio fotografico e sono stata la mattina in piedi. Già. Dimmi, se lo vedi che fa una bella giocata, cioè, andiamo a Uso e ti fai le fotografie. Se fa una bella giornata naturalmente, se no come l'altra volta non ti salirci su, capito? Saliamo su e ci prendiamo ti fai la fotografia e poi ci prendiamo una bella birretta, chiamo a Gianni, la verità. Se te lo dimentichi il suo, lo chiamiamo ma al limite possiamo parlare anche con cosa, con quello già avuto di uso, come cambio si chiamava, che è stato entrato. Non so neanche che fine abbia fatto. Fanculo, il maniaco. Pochino. Non ho capito, già c'è bisogno di il nome. Lo dico io il nome, non c'è problema. No. Pochino. Se ti sento lui, ragazzi, incazzo. E poi è come Pomponio, Ciao Marco, saluto lui. Ben rientrato, barrato, ma anche in Girella, sì. Buonasera a tutti, no negativo, mi stavo dannando l'anima con quel computer maledetto, dai, credo di aver risolto. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Ciao Marco, buonasera. Ciao Marco Combo, ho contattato il canale, ma non mi ha risposto. Ho fatto un passaggio già, se mi stavo zuffando col computer, dai, bene o male risolto. Chi c'è sul canale? Sì, c'è Mario Pomponio, Garvino, chi c'è? Elio, poi mi sembra di non vedere. Garvino l'ha prodotto nessuno. C'è anche quello che ha avuto l'attacco epilettico col capo condomino di sopra. Sei grullino. Guarda, se faccio TVI mi voglio divertire qua. Poi si divertiranno loro, dai. Sì, ma lui ha fatto il telefono di così reale. Aspetta, già, non ti ho capito, dimmi. Ho detto che gli ha fatto il televisore con lineare. Sì, già lo grido, a seconda di che lineare è. Pensa che quando fischiavo con 80 watt col Kenwood, si praticamente lampeggiava una lampada che ho in corridoio e si accende quelle interruttore magnetico, come tocchi praticamente il corpo della lampada si accende, stava lampeggiando. Quello è fatto bene, stavo messo male. L'induzione si chiama quello che si alimenta. Ma tu non ci crederai, una volta eravamo al quadrato, io ero in macchina via, mi sono messo a modulare e c'era Barragicola a fianco a me, a fianco, un po' più in là. E c'era la radio spenta, lo sai che ne va accesa? Come la chi? lei, magari gli hai girato l'interruttore e il potenziometro. Te lo giuro, è dell'accesa davvero. Ma sarà di quelle col tastino accensione digitale? Non so com'era, però le l'ho accesa. E la c'è attaccato di me e adesso se la vai. Me l'ha fatto anche a me Gavì, ero sotto casa con l'ineretto e praticamente entravo nelle casse del computer di quello che abita quasi di fronte, dai. Non sarebbe una cattiva idea di questi tempi. A lei è arrivato chi è? Aspetta un attimo che accendo il computer, cioè accendo, è acceso, aspetta un secondo che... guardo il messaggio là. Recuperabile. A legna va bene. Va bene, al posto del pellet. Orfono. Mer. Come faccio a chiamare con l'aereo? Non spieghi. C'ho creditos. Non ho capito. Mi ha scritto di chiamare. No, io ho già scritto di chiamarti il numero. Ah, vabbè, ti faccio chiamare a lui domani, no, non c'è problema, lui, non c'è problema. Va avanti il pellet che va bene, che fatti vuoi. No, aspetta che ti mezzo di scoglio. Ma faccio il mio numero. Prova il mio numero, ce l'ha già. Che cazzo deve fregare? Che scritto, vede a cavolo? Comunque va benissimo. Magno, il magno. Stai schiacciando anche bomboni. Dai, arrivo subito. Niente, sono quello valorato io. Neanche mio questo è tuo. Capito cos'è? Io ho visto questo numero. Dica, chi ha la... Blu, là, ce l'ha già il mio numero, ce l'ha segnato. Era per tanto la te. Adesso ve lo sei. Che se quello che vale... Se... Allora, ti serve a te, che lato hai? No, non ho fatto il tempo perché poi alla fine non si poteva fare, non ho fatto manco un tempo a fare. E vabbè, allora facciamo così, adesso domani, vabbè, ce l'ho da fare anch'io. Però dopo domani, martedì, andiamo in quel negozio lì dove ci sono tutti quegli apparecchi, quelle antenne. Vieni con me e le recuperiamo tutte, capito? Perché la telefonata ci sono, dice, questi apparecchi qui da ritirare. Ci vogliono, sono anche soldi per ritirarli, ma non ci vuole altro. Andiamo e ritiriamo. Eia, va bene. Ti prendi i capi? Eccolo. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Sì, potresti andare meglio però, eh. No, adesso stai andando bene però. Ma sei fermo, sì. Sì, sì. Prova a staccare la scarpa. Sì, sei sceso, attacca, attacca, va benissimo. Va bene, va bene. Ehi, ma guarda che basta poco, basta che ti sposti di poco e... segnale normale che sia così, però vai più che bene, ma stai tranquillo che va più che bene a me è... sta arrivando con la V5 come sempre, sempre la V5 mi sta arrivando da un po' tutto. Questo è il tuo segnale da Baragonza. Sì, ma c'è gente di Sassari che non arriva così, figurati. Ma infatti dalla macchina non segnalo. Sono 40 watt effettivi, li avete controllati? 50 watt quelli di Gavino. Sono 50 watt. Eia. Che lineare è per sapere come è pilotato, Antu? 747. Ah. 747. Ah, ho capito. Non dovrebbe dare anche 100, pilotato con 10. Gianni. Ma infatti non lo sta pilotando con 10. Ah. Conduci da 100 watt. è pilotato con l'ICI, però sai cos'è, scalda, boh, non lo so, il mio scalda, e poi lo sai già cosa c'è dentro il 747, almeno nelle vecchie versioni, c'è il KL203 che ho io. Magari il KL203 che ha confetto la 747, perché il 747 esiste una pizza. No, già, se tu apri adesso le versioni nuove, non lo so, nelle vecchie versioni praticamente c'era tutto lo stampato, praticamente dentro c'era il lineare KL203 e c'è scritto RM Italy modello KL203, poi nelle versioni nuove non so, perché hanno fatto un nuovissimo modello con un design leggermente diverso. Vabbè, comunque fino alle ammosso ci sono, è il migliore che c'è, non me ne assumisci. Eia, adesso ho fatto un'altra prova, ti ricordi che il mio RM praticamente non staccava la portante, rimaneva innescata, no? Sì. Allora ho pensato, il manuale dice che il cavo che arriva dalla batteria deve essere il più corto possibile, ok, allora l'elettrodo mi ha fatto fare un cavo che praticamente faceva tutto il giro sedile, un giro del menga, l'ho accorciato al minimo indispensabile, ce n'erano 2 metri in eccedenza, nonostante tutto ho provato a modulare con addirittura con 4 soli watt d'ingresso, niente da fare, la portante non stacca. Io non capisco come mai, visto che praticamente il 747 ha dentro lo stesso circuito, lo stesso lineare, però da me non stacca la portante. Secondo me è la base magnetica. No, non esiste. Scommetto che se l'ho programmato in aria non lo fa. E appunto, tu non hai la base magnetica, tu hai l'antenna proprio a massa. Scommetto che il 747 non te lo fa. Probabile, magari c'è qualche componente di valore leggermente diverso, ma tu già hai tutto fisso in macchina o in lineare, lo puoi togliere semplicemente togliendo le banane e il PL. E posso togliere tutto. Buon un giorno lo proviamo, ci vediamo, piazza dei segni, te lo metti un attimo e vediamo se stacca, perché l'ha fatta molta gente, gente che aveva anche l'antenna centrotetto senza la base magnetica. No, ma è un problema mio, Gavi, è un problema mio. Vedi un po' come mi ascolti, Gavi, sono con 4 watt portante muta e 40 modulati, vedi un po'? 9, e come può essere? Addirittura 9. E a me come ti mi ascolta già. Io mi chiamo Genoveffo. Ma nulla, sempre assoluto. Non ho toccato niente. Adesso dovrei essere basso. Basso. Qua c'è 9 watt. Sto uscendo con 4 watt. Ma non contavo quanto, voglio sapere più o meno una cosa. Sul 4869, ma non vuoi trasmettere, è una cagata. 69 radio 5. KK. E poi si dice giusto. Come? Può darsi che sia giusto, comunque lui sta dicendo che era 48, non era la M300. Ma quale? Questo mio? Sì. Questo è 48 da battaglia, con la possibilità di inserire ola. Crisci. Ragazzi, buonanotte, io vado a cena, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti, cuore T. Ciao Marco, buonanotte, avanti Gabri, vai. Ciao Marco, è male, buonanotte. Adesso fermoci Gabri. Ciao Marco, buonanotte. Ciao a tutti. Cos'è buonanotte? Poi non dorme fino alle 3 di notte, cos'è buonanotte? Per lui è pomeriggio adesso, pomeriggio tardi. È il piccolo Lord. No, veramente, data l'insonnia, sto prendendo sonno alle 5 in questi giorni. L'uomo della notte. Bene, ma perché non, ma cosa fai da adesso fino alle 5, a parte guardare le cose zozze su internet? No, guardo la TV, lascio acceso la TV e spero che mi arrivi il sonno. Sì, che poi è una cosa solamente di spostamento di orario, perché poi dormi fino a mezzogiorno. Mi sa che io ho il fuso orario dalla costa orientale statunitense. Ma infatti ti conviene trasferirti, cazzo. Via. Vabbè, dai, buonanotte a tutti. Adesso lo chiamiamo l'americano. Guarda. E boh, come... no, come ti stanno arrivando forse? Un po' copiato, tanto non ho parlato. Calvino, volevo dire. Mi potete chiamare l'americano dei poveri, però. E poi abbreviamo, invece che chiamarti americano ti chiamiamo solamente Ano. Pipistrello americano, Anocino. No, no, no, no, ti abbreviamo, ti chiamiamo Ano e basta. No, ma in americano è As. S. S si pronuncia. S. Vabbè, dai, buonanotte, sennò mi tocca mangiare alle 5, ciao, di notte. Aspetta, dici almeno cosa devi andare a mangiare. Grazie. Cosa devi andare a mangiare? Ten due, avanti Gianni. Ho detto, se vi interessa fare corsi di inglese è gratis, che qua li stanno facendo i mormoni. Ma quelli ti vogliono tirare dentro con la loro fede? No, no. Ma assolutamente. Ci va anche mia figlia, ci va mio nipote. Fanno le lezioni normali. Aspetta, ma cosa devi andare a mangiare, Marco? No, roba leggera. Una simmental con insalata. Sì, mi pare di sì. Così? Con le insalatine tagliate sottili sottili? No, belga. Forse anche iceberg tagliato a pezzi. Capo, ma tua mamma cosa ti dice? Scusa che mangi così tardi. No, anche lei mangia così tardi. Ah, quindi non mangi da solo. Vabbè, a quest'ora lei avrà già finito. Io arrivo sempre quando lei ha la frutta. Vabbè, dai, bye bye, alle prossime. È un usante, è un usante. Dammi. Però comprati la batteria di col microfono perché sei bruciato intorno. Camminando. E sta innescando il microfono. Vedi che non era il vento. No, è il coso, la batteria scarica di quel microfono, è scarica. Oh, mi ascoltate così? Sì. Lungo tutto il braccio, distanza dal mic. Bene, bene. Vabbè, ma io sono insoddisfatto comunque, per natura. Ciao, ciao, ciao. E che microfono è? Sì, no, è il microfono, se ne è cambiato, sta mescando anche questo, comunque ciao. Probabilmente sono stazionari. È lo stesso, è lo stesso. Va bene, capi, dai, fatela buona, buon 144, quando lo farò male, nel caso ci sentiamo, ti faccio una bassa prima di arrivare. Buonanotte, ciao ciao, fate da bravi, non toccatevi e ci sentiamo domani se coincide. Buonanotte, ciao Gianni, ciao Elio, non lo dovrei dire comunque, ciao anche a Pomponi, va. Ciao Gabino. Un fischio, Anto, ci sentiamo. Facendo un fischio, cazzo, buono, strano. Ti ho comprato, mi sembra bene. Allucinante, Ma con te detto Gabino. Ciao Antonio, ciao anche a Gabino. A fischi sto uscendo. E tu, povero Gabino. Gabi, buono, prendati tutto. Perché poco fa non era a fischi, adesso sì, è strano, Ah, la batteria c'è tanto per un tubo, la batteria col fischio. Quanto da qualche cosa, perché non è possibile. Mi sta dicendo bene, da quando si parte da camminare qua, cioè si passa davanti a casa mia. Sì, se non giù sta dicendo bene. Dopodiché, come sei arrivato giù, ha messo il microfono e facendo a fischi. Non è una bella male. Antonio, buonanotte. Secondo me la sua stazionale oppure può essere anche il filo, qualche cosa nello spinotto. Non c'è nulla al filotto nuovo, voglio aver fatto saldare tu e poi c'è qualcosa che tocca, buonanotte, ciao. Un puccio. Non ho rimasto nessuno. Boh, non lo so. Sì, mi prendi tra... stavo mettendo notizie, mi mancava un microfono un po' male. Io non ho scappato la notizia di microfono e di quello dell'altro, via, di sonnaggio. Stavo cercando una notizia, no? Non ne hai con la calma. Figlia, credo che lo stai sotto la parola. Come si può dire con la calma, già che? Figlio, ho messo l'acqua. Sono rientrato con le cuffie naturalmente. Ok. Che microfono è? Aspetta, quello mio, non so che usavo lo che è molto. No, è il mio sonno. Monaco. Quantificato? No, non vale. Com'è, tipo CTE? Sì, sono tutti uguali. Quasi che ce l'ho io la cassa, quasi senza affollarsi, forse ce l'ho. Ma... non so dove volavo, capito? C'era, mancava una pizza e c'era un cuore dentro che non ho distanza. Ma magari non si potrà più smontare perché l'attacco da muro attacca lì e tutto. No, vi ho bloccato solo l'apparino classico, no? Dove c'è il buco della pizza. Dove c'è il buco non l'ho messo altro, l'ho messo in sotto. Le latte qui a me. Sembra certo. Un turno, guarda qua, fine qua. Se stai con l'acqua si sente che è quello. Ma quello che ti ho dato io, il mio. È quello che mi ha dato tu stasera, è proprio quello lì. Aspetta un attimo, ma non ti convinco. Due secondi, aspetta. Con il cofano mio, con l'amplificato, con il salento. Con la rossa, aspetta. Ecco. Aspetta un attimo, vado in bagno e carico l'acqua. Due secondi e te lo faccio sentire. Così ti rendi conto. Got it, io che per ogni problema per FM che porta che esca. Lui non c'è problema. E via. Quando passa la mano del tirazzo. preoccupato se mi chiama lui. No, l'alimentatore è a parte, mi ha preso. È doloroso. Comunque sia. Avvisami prima, vabbè, proprio se lo conosco di Pasqua, quindi ti avvisa prima, mi avvisa prima la mia mattina. Al limite tu di piace il numero di telefono tu, al limite ti faccio uno squillo, eccetera, eccetera. Qua c'è il barattino in macchina lui, quindi mi ricordo l'ingresso, e poi bisogna pigliare la strada, poi è sotto la porta, eccetera, eccetera. Poi al limite mi dirai tu dove andare. Non me ne ricordo, solo dove abiti, cazzo, non sono andata sola, io non ho questa fantasia di luoghi, capito? Quindi mi ricordo che sono entrato all'ingresso di Usini e poi dopodiché ho girato la parte lì e abbiamo piegato per sotto quel ponte, dopodiché siamo andati dritti, eccetera, eccetera. Ah, per venire qua, ma perché vuoi per venire qua? Lui è direttamente lì da te, capito? Così deve essere acceso, lo prova e poi se lo prende, capito? Capito il problema, quindi vabbè, già per quello già ti chiamo io. Poi una volta arrivato lì, dove siamo in paese, se ci dice dove andare, già ci arriviamo, per quello non ti preoccupare. Così lo prende, vede tutto, e cioè dove è proprio l'altro, al limite, gli attacco la parecchio, così almeno sai cosa sta, cioè, cosa sta ascoltando, così siamo già dove. Mi dispiace d'altro, è veramente incredibile. Però è perché voglio prendere una cosa un attimo, no? E voglio fare niente. Lo so cosa vuoi, non ti preoccupare di me. Quindi, lo so. Purtroppo dispiaceranno le cose così. Le cose si rimpiangono un pochettino, ma comunque sia. Ti parte avere quello che ti piace a te, dopodiché il resto, vabbè, c'è sempre te per comprarlo di nuovo, capito? Se si trovano anche meglio magari di fare un nuovo per dire che c'è un sacco di cose, eccetera, eccetera. Sì, ma no, vabbè, avevo già deciso ultimo, ma io l'ho preso, che ci sono per fare l'investimento era tutto per quello. Adesso fai quell'investimento che ti ho detto di stasera, capito? Con la colonia poi fammi sapere qualcosa, che fai un bel investimento l'albero con quello, già, se per tutti. Così siete in due, magari vi serve qualcosa, andate e vi aggrappate tutti e due. Va bene, tu la leggi, io me ne vado a Nanna, ciao, a domani, nel caso se qualcosa chiamami e fammi sapere qualcosa subito al telefono e poi ci vediamo, ok? E io non prendo neanche quello. Sì, c'è la magnetica, gli ho detto tra un giro col presidente Jackson, quindi che te lo può fare quando arriva quello. Ti chiamo quando sono lì in paese, non ti preoccupare, poi gli amici dove andare e già ci vediamo. No, dico a casa sua, se non do quella. C'è la casa sull'antenna, c'è una gran freccia. Però per venire a casa tua, non ti preoccupare per quello, già c'è ancora la baracchina in macchina. Sì, va bene, va bene. Sentiamo domani. Ah sì, a domani. Ciao, buonanotte. Okay.